ma la odio non voglio aumentare. Rischi a piedi per un cemento, la vostra fine, la nostra nazione. Oggi, non è ancora cambiato, rabbia, vostra.